Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 20. Due lettere mi indussero a tornare sulla strada. Una era di Franklin Jordan, che mi chiamava a Washington. Migliaia di reduci stavano marciando sulla capitale per chiedere che fosse loro corrisposto il sussidio. L'altra era di Eileen O'Connor, la presidentessa della IUWWA, l'organizzazione comunemente nota come Women Itinerance Hobo Union o Sister of the Hood. Mi chiedeva di intervenire al congresso delle donne Hobo, che si sarebbe tenuto in giugno nella Webster Hall di New York. Pensai alla mia bambina, che avevo giurato di non lasciare mai. Pensai a come avevo criticato mio padre perché mi aveva abbandonato. Ma pensai anche a ciò che aveva detto Franklin Jordan. Il mio posto è dove si combatte per la libertà di parola, per i diritti dei lavoratori e dei disoccupati. Perciò decisi di andare a Washington e a New York. Le donne della Home Colony organizzarono una festicciola d'addio. Erano 10 donne e tutte avevano avuto esperienze sulla strada. 8 di loro erano madri. Molte erano state sposate, ma non tenevano in alcuna considerazione i vincoli matrimoniali. Tutte vivevano liberamente, in amore con i loro uomini. I bambini della Home Colony erano sani, forti, felici. Baby Dare venne con gli altri a vedermi partire. Metà degli abitanti della colonia erano sul molo. Tutti erano contenti che partecipassi alla manifestazione dei reduci a Washington e al congresso delle donne Hobo. Non chiesi a nessuno di prendersi cura di Baby Dare. Nessuno accennò al problema. Mia figlia apparteneva alla colonia e tutti nutrivano interesse per lei. La colonia era fondata su basi realmente cooperative. La maggior parte degli anarchici aveva in comune non soltanto il lavoro, ma ogni cosa. I bambini erano abituati ad andare a mangiare e a dormire in casa di chiunque. Sapevo che Baby Dare era in buone mani. I miei amici e compagni mi augurarono buona fortuna e il battello prese il largo, risalendo il magnifico fiordo del Sound. I giorni seguenti furono indimenticabili. Feci la maggior parte del viaggio fino a Washington in autostop. Appena oltre Pittsburgh, fui raccolta su una vecchia Buick da 3 veterani che mi portarono fino al campo del sussidio, dove mi incontrai con Jordan. Lo spirito di ribellione, l'allegria e la miseria che regnavano nel campo non si possono descrivere. Ebbi la sensazione che vi fosse rappresentata con assoluta veridicità tutta l'America, un'America lacerata e in lotta. Andai di tenda in tenda e feci quel che potei. Lavai biancheria, scrissi lettere, curai gli ammalati, esortai i deboli a non smobilitare finché il sussidio non fosse stato pagato. Ascoltai storie di frustrazione e di disoccupazione. E quando, in un clima di confusione e di risentimento, fummo costretti a evacuare il campo, riaffiorò con nuova e dolorosa forza l'avversione nei confronti del governo e dei politici, che mi era stata inculcata fin dall'infanzia. La maggior parte delle donne del campo, mogli e fidanzate gregarie, molte non avvezze alla strada, ma alcune vagabonde di vecchia data. Mi seguì in autostop fino a New York per prendere parte al congresso delle donne Hobo. La parola d'ordine del congresso era Una casa e un lavoro per ogni uomo e per ogni donna. E i lavori si conclusero con la definizione di un progetto per l'istituzione di università delle vagabonde, diffuse in tutto il paese con centri di servizio, uffici di informazione e corsi di patologia sociale. Secondo i nostri piani, ogni centro di servizio per le donne della strada avrebbe dovuto disporre di un locale attrezzato con tutto il necessario per lavare e aggiustare i vestiti, cioè con macchine per cucire, con pezzi di tessuto per riparare i buchi, con tinture, con attrezzi per aggiustare le scarpe e con tutto il necessario per lavare e asciugare, comprese le macchine per l'asciugatura rapida. Poi avrebbero dovuto esserci cucine economiche, piatti e una sala da pranzo, con tavoli individuali e collettivi. Infine, un posto dove le donne della strada, in grado di procurarsi in qualche modo il cibo, potessero cucinarselo da sole. Avrebbe dovuto esserci anche, pensammo, una stanza con tutto il necessario per scrivere e per ricevere corrispondenza, comprese alcune macchine da scrivere nel caso vi fosse bisogno di redigere in bella copia lettere con richieste di lavoro da inviare alle ditte. Prevedemmo anche che vi fosse una biblioteca con riviste e libri che trattassero specificatamente i problemi delle donne. Una parte importante del progetto riguardava la necessità di attrezzare i centri con un locale per l'igiene personale, provvisto di tutto il necessario per il bagno e per la profilassi preventiva. In considerazione del fatto che la diffusione di molte malattie tra le donne della strada è dovuto proprio all'impossibilità di viaggiare portandosi appresso ciò che serve a questo scopo. In ogni centro avrebbe dovuto operare una consulente personale, in grado di fornire in modo amichevole consigli su problemi amorosi ed economici, sui metodi anticoncezionali e sulla gravidanza. Prevedemmo anche un servizio di consulenza legale. Le sorelle della strada hanno bisogno spesso di consigli in materia legale. Molte sono divorziate o hanno in corso cause di divorzio o per la corrispondenza di alimenti. Non poche sono bigame, parecchie hanno abbandonato i mariti, sovente anche i figli, oppure sono state abbandonate. Ci sono anche molte fuggiasche, donne che sono scappate dai mariti o che sono evase dagli orfanotrofi o da istituti di pena. Infine, capita a volte che le donne sulla strada siano beneficiarie di un'eredità. Oltre a tutto questo, i centri avrebbero dovuto essere attrezzati con locali per giochi, riunioni, attività artistiche e artigianali. Gli uffici di informazioni delle singole università avrebbero dovuto specializzarsi nel reperire lavori inconsueti e offrire lavori retribuiti con vitto, alloggio e servizi. Avrebbero dovuto tenere un elenco di alloggi confortevoli ed economici o di posti dove era possibile alloggiare e mangiare gratuitamente. Avrebbero dovuto fornire anche informazioni aggiornate sulle organizzazioni assistenziali federali, statali, municipali e private. Infine, avrebbero dovuto essere in grado di indirizzare le donne ad ambulatori medici gratuiti e di dare consigli sulle loro possibilità di utilizzare mezzi di trasporto gratuiti o a basso prezzo. La nostra ispiratrice fu Eileen O'Connor, una trentenne irlandese con il viso affusolato, accesa di entusiasmo all'idea che potessero esservi sempre più donne libere e coraggiose sulle strade e che si potesse provvedere al loro benessere. Quando il congresso si sciolse, l'aiutai a redigere le comunicazioni che inviammo a tutte le organizzazioni assistenziali federali e statali e da allora in poi ho sempre seguito con interesse l'adozione di molte nostre proposte nei centri per l'assistenza ai vagabondi in tutto il paese. Oltre alla sensibilizzazione delle organizzazioni assistenziali governative, il risultato più notevole del congresso fu probabilmente la diffusione della propaganda anticoncezionale e di una maggiore informazione sulla profilassi delle malattie veneree. La sostanziale diminuzione del tasso di natalità, delle malattie venere e degli aborti che si è riscontrata in questi ultimi anni in America si deve in parte anche all'opera svolta da quel congresso. Mi trasferì in una stanzetta in Washington Square, insieme a Franklin Jordan. Benché fosse assai più intelligente, Jordan aveva una cosa in comune con Bill Stewart. Divideva il suo tempo tra molte donne. Ma le notti che trascorrevo con lui erano meravigliose ed ero felice quando voleva stare con me. Facevamo delle grandi bevute insieme, ma a New York mi sentivo sola, mi perdevo tra la folla che riempiva le strade e non sopportavo l'idea di riprendere a frequentare i poeti del Village o altra gente del giro che avevo conosciuto in passato. Una sera mi fermai davanti alla Bowery Mission sulla Bowery, nei pressi di Grand Street, vidi entrare un sacco di gente, per lo più uomini, dall'aria miserabile, ma anche qualche donna. Un cartello appeso ai vetri diceva: «Si servono gratis caffè e panini». Entrai, il locale era affollato e prima delle 8 si chiusero le porte. Nel corso della riunione, molti dei presenti, almeno una dozzina tra uomini e donne, si alzarono e a testimoniare di essere stati salvati dall'alcolismo, dal furto e dalla prostituzione, grazie al sangue di Gesù Cristo. Come poteva il sangue di Gesù Cristo salvare qualcuno dal peccato? E da che cosa era stata salvata quella gente? Avrebbero potuto essere salvati nello stesso modo anche Otto, Catherine e Lefty? Non mi era chiaro. Mentre uscivo dalla sala, una signora anziana mi fermò. «Mi permettete di accompagnarvi a casa?» chiese. «Ho l'auto qui fuori». Salì in auto, ma invece di accompagnarmi al mio indirizzo mi condusse a casa sua, dove parlammo a lungo. Per suo interessamento trovai impiego presso l'Ospizio delle Misericordie, una missione situata in un edificio di 4 piani nella 19ª strada est. Nessuna sorella della strada rischiava di finire nelle mani della Home Missionary Society. Il ricovero era riservato alle donne povere di religione protestante. Il giorno che fui assunta, la signora Amber, la sovrintendente, mi illustrò le norme della casa. «Siamo molto attenti a chi prendiamo», mi disse. «Non accettiamo ubriache e prostitute e assolutamente non prendiamo donne affette da malattie sociali. Gli ospedali non mancano per quelle. Ora, signorina Thompson, certamente sapete che questo è un ospizio cristiano. La signora Robinson mi ha detto che siete adatta a questo lavoro, benché non siate cristiana praticante. Abbiamo bisogno di qualcuno che capisca le donne e sappia essere loro d'aiuto. Lo stipendio è di $25 al mese più vitto, alloggio e lavanderia. Le uniformi le forniamo noi». Ero contenta di quel nuovo impiego e mi piacevano sia le donne che lavoravano nell'ospizio sia il consiglio di amministrazione. Mi sembravano tutte persone oneste, desiderose di aiutare il prossimo. Soltanto alcune delle vecchie signore del consiglio di amministrazione non sapevano bene di che cosa si stavano occupando. L'ospizio della Misericordia offriva un alloggio temporaneo. Ospitavano 40 donne che dormivano in stanze doppie. Si mangiava bene. Gli ospiti dovevano soltanto aiutare a tenere pulito l'ospizio e servire a tavola. Io assistevo la sovrintendente. Registravo le ragazze, cercavo di trovar loro un lavoro e le esortavo a tenersi in contatto con le rispettive famiglie. Non era consentito soggiornare all'ospizio per più di 2 settimane e solitamente riuscivamo a collocare le ragazze o a rimandarle a casa prima di quella scadenza. Lavorai all'ospizio per 9 mesi, durante i quali registrai oltre 200 ragazze ed entrai in contatto con la maggior parte delle organizzazioni sociali. Mi associai al circolo del servizio sociale e partecipai regolarmente alle riunioni settimanali con le rappresentanti dei vari organismi che si occupavano delle donne senza tetto. Mi piaceva il mio lavoro e mi piacevano le ragazze. Leggevo le lettere che ricevevano dai genitori e dagli amanti e le aiutavo a scriverne. Sognavo di poter gestire un giorno un'organizzazione tutta mia. Poi accadde qualcosa. Ancora oggi non so esattamente che cosa. La mia sfortuna, che fino ad allora aveva tenuto le distanze, tornò alla carica e mi fece lo sgambetto. Fu un venerdì pomeriggio, dopo che il consiglio di amministrazione ebbe finito di prendere il tè. La signora Adams, che presiedeva il consiglio, venne da me con un'espressione solenne e severa. Capii che qualcosa non andava, ma seppi che cos'era soltanto quando cominciò a parlare. «Signorina Thompson», disse, «siamo molto spiacenti, ma dobbiamo chiedervi di rassegnare immediatamente le dimissioni. Sapevamo che avevate frequentato i bassi fondi e abbiamo ritenuto che ciò potesse aiutarvi a comprendere meglio le nostre ospiti, ma abbiamo appena appreso da fonte sicura che siete stata malata. Sapete bene che non possiamo accettare donne che siano state affette da malattie così terribili». Non c'era nulla da dire, era la pura verità. Potevo soltanto sentirmi di nuovo sola e disoccupata. Il giorno che mi buttarono fuori dall'ospizio della Misericordia, mi recai negli uffici del Social Service Exchange Register e scoprii che c'era un posto disponibile in Alabama, presso la Women's Municipal Relief Station. Feci domanda e ottenni l'impiego. Jordan aveva già progettato di andare al sud, perciò nel giro di una settimana ci mettemmo in viaggio. L'Alabama Female Service Bureau for Transient Women aveva gli uffici in un unico edificio insieme a un'altra dozzina di organizzazioni assistenziali. All'inizio il mio lavoro consistette nel raccogliere le informazioni relative a ciascun caso. Le nostre postulanti erano vagabonde bianche e di colore. Ogni giorno avevo colloqui con 20-25 donne. Le donne che si rivolgevano a noi erano il prodotto finale della disoccupazione. Le loro storie si somigliavano tutte. Il mio uomo ha perduto il lavoro, sono rimasta senza lavoro, vogliamo andare a Nashville da mia madre, eravamo a carico dell'assistenza in Florida, ma ci hanno cancellato dalle liste, perciò me ne vado a Chicago. Ho vissuto in quella piantagione per 25 anni e il signor Jones ha fatto il possibile per tenermi, ma gli hanno precluso il riscatto dell'ipoteca, perciò siamo finiti tutti a spasso. Più lavoro, più faccio debito. Devo soldi a tutti. Ho perduto l'assicurazione e ho impegnato tutto quello che avevo. Molte donne avevano con sé i bambini e avevano viaggiato nei vagoni merci o con l'autostop. Parecchie erano venute a piedi. Non poche erano arrivate fin lì con le loro auto, per lo più vecchie Ford male in arnese. All'inizio l'organizzazione rifiutava di dare benzina alle vagabonde, ma ben presto riuscì a convincere i funzionari che era meglio dare loro non soltanto la benzina, ma anche vitto e alloggio per qualche giorno e i vestiti di cui potessero aver bisogno. La processione delle postulanti sembrava non aver fine. All'ospizio della Misericordia ero stata felice, ma al Women's Service Bureau provai una pace e una gioia che ancora non conoscevo. Stavo aiutando le mie compagne, le sorelle della strada. Franklin Jordan era un amante poetico, mi amava a parole più che con il corpo. Era una gioia averlo tutto per me. Alloggiavamo in due stanze comunicanti, in una pensione linda e pulita. Jordan non tentò neppure di trovare un lavoro, i conti li pagavo io. Lui trascorreva tutto il tempo nella sede sindacale o in biblioteca. In meno di 6 mesi assunsi il pieno controllo della sezione femminile dell'ufficio e tenni anche qualche discorso in pubblico, in occasione di conferenze o nelle chiese. La mia vita era felice e piena, avevo dimenticato il passato. «Sono così contenta», disse a Jordan una sera. «Bada», mi avvertì. «Dio si preoccupa che gli alberi non crescano fino al cielo». Un giorno diedi un'occhiata alla fila nella sala d'attesa degli uomini e riconobbi Lefty, il borsaiolo, che avevo conosciuto quando stavo con Bigotto. Andai a stringergli la mano e gli chiesi che cosa potessi fare per lui. Ho appena fatto una sestina ai lavori forzati nel Mississippi e ora sono a zonzo, mi spiegò. Devo trovare un mezzo di trasporto fino a New York. I piedi piatti del sud mi fanno paura. Non riesco a mettermi in contatto con quelli della vecchia banda. Lo accompagnai dall'impiegato che raccoglieva le richieste e dissi: «Questo è un mio vecchio amico. Mi raccomando, trattalo bene». Il giorno seguente il direttore dell'ufficio mi disse: «Ci dispiace, signorina Thompson, ma dobbiamo chiedervi di rassegnare le dimissioni. Avete avuto una condanna penale e non ne avete fatto cenno nella vostra domanda di impiego. Avete fatto uno splendido lavoro qui. Avete contribuito a costruire un'organizzazione che dà lustro al Sud. Ma come ce la caveremo se qualche giornale ficcasse il naso in questa storia e venisse a sapere che la responsabile della sezione femminile del nostro ufficio è stata in galera? Ha fatto parte di una banda di ladri? Ci piacete, apprezziamo il vostro lavoro, ma dobbiamo rinunciare a voi. Vi prego di credere che personalmente non abbiamo nulla contro di voi e che se fossimo un'organizzazione privata non ci sarebbe alcun problema. Ma questa è un'organizzazione governativa e screditarla significherebbe screditare il governo. Così Lefty mi aveva fregato. Evidentemente nutriva ancora antipatia nei miei confronti dai tempi della banda e aveva approfittato dell'occasione per demolire tutto ciò che avevo faticosamente costruito. Gli uomini e le donne che alloggiavano nel centro di assistenza vennero a sapere che ero stata licenziata perché avevo la fedina penale sporca e sottoscrissero una petizione in mio favore. Poi i giornali scrissero che un vagabondo aveva fatto deragliare un treno passeggeri per rappresaglia contro l'organizzazione che mi aveva licenziato. Due giorni dopo, apparentemente per lo stesso motivo, qualcuno appiccò un incendio nel ricovero degli uomini. Ma ormai Jordan e io eravamo in viaggio verso la California su un vagone merci. Negli ultimi due anni avevo bevuto molto poco e avevo smesso completamente di fumare, ma partimmo per quel viaggio con due bottiglie di whisky. «Piantala, Berta», mi rimproverava Jordan, «l'alcol ti rovinerà. Non hai bisogno di bere così tanto». Invece bevevo e insistevo perché bevesse anche lui. Ce la prendemmo comoda e in 12 giorni raggiungemmo la periferia di Los Angeles. Eravamo quasi sempre ubriachi, entrammo nello scalo della South Pacific viaggiando sui respingenti di un merci. Un agente della polizia ferroviaria ci vide, cacciò un urlo e saltò sul vagone dietro al nostro. Salì sul tetto, passò sul nostro vagone e si sporse sopra di noi. «Non scendete finché il treno non si ferma», intimò. «Siete in arresto». Non mi è chiaro che cosa accadde nei secondi che seguirono. Jordan e io ci interrogammo con lo sguardo, incerti se saltare giù o no. Poi ricordo che io saltai e tesi la mano, non so se per salvare Jordan o per essere salvata da lui. Poi le rotaie ci vennero addosso e il tremendo impatto con i sassi mi stordì. Tuttavia non persi conoscenza, sentivo le ruote del treno che mi passavano vicino alle orecchie, sopra la testa, con un frastuono assordante, ed ero consapevole di stringere le mani di Jordan che sembravano strane, pesanti e prive di vita, salvo per uno spasimo intermittente. Poi improvvisamente tornai a percepire acutamente la realtà e vidi che il corpo di Jordan era per metà a destra dei binari, accanto a me, e per metà sotto il treno. Lo tirai con tutte le mie forze, ma nel momento stesso in cui lo facevo mi resi conto che era troppo tardi. Le ruote di oltre 20 vagoni gli avevano già tranciato le gambe, quasi all'altezza del bacino. Quando anche l'ultimo vagone fu passato, mi accasciai sulle rotaie, stringendo le mani di un uomo senza più gambe e senza vita, il mio amante. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che io so. libri ribelli.